fatica, qual pietà per te uzzon, qual turbamento, nella sua morte il tuo dolore tarente. E credi tu che al fine ceda l'alma orgogliosa ai miei desiri? Vuoi che io libera parli e senza inganno, sì, te intriego, il suo cuore non è facile trofeo. Zelinda e tiene, Zelinda qui gran tempo, tiene il tartaro cielo, fede di sposa, e sprezzata sarò per altro amante. Lo vinceranno i tuoi favori accesi, il suo destin presente, non disperante. Amore, per sentiero di pene, guida i seguaci suoni, e quanto più bramato, tanto più grato ancor d'un cuore il dono. Se mi tradisci, ahi che rimorti io sono,